racconta al giornale che c'è gente di Milano che fa la fila per andare a salutare e a ringraziare i titolari di questo garage che hanno bloccato l'area del traffico. Su questo anche si esercita Michele Serra con la maca. Noi ne parleremo alle 8.30. Intanto zitti zitti di sport, zitti zitti silenziosi, ma Antonio Conte rischia una squalifica di un anno. 24 mattino. Siamo qui alle 8.20 minuti in punto. Ben ritrovati da Alessandro Milan. Eccoci. Voglio salutare il governatore della regione Molise, Michele Iorio. Buongiorno presidente, eccoci qua, del Popolo della Libertà. Allora, ho vari argomenti da trattare. Il primo, avrà letto anche lei ieri il Corriere della Sera, Gian Antonio Stella. Sicuramente. Ma è vero che alla regione Molise è arrivato il premio stipendio a tutti i dirigenti, tutti, tra cui anche Elvio Carugno, in carcere con un'accusa grave di aver sottratto soldi alla regione, da 300.000 euro da mesi. È così? Non è vero. Non è vero. Come non è vero? Non è vero perché sono stati distribuiti come da contratto, quindi in maniera automatica ed obbligatoria da parte dei dirigenti e non per un atto volitivo della politica, il premio di produttività che spetta per contratto a tutti i dirigenti. E quindi è vero, cioè è arrivato a lui il premio di produttività? No, perché il provvedimento relativo a due persone che sono, diciamo, uno agli arresti e l'altro sottoposto a procedimento giudiziario che si stanno svolgendo in questo periodo, sono stati immediatamente sospesi e quindi non verranno erogati fino a quando non si chiarirà la loro posizione giuridica, giudiziaria, sì, e si valuterà l'opportunità in quel momento, perché siamo ancora... quindi diciamo però in automatico... Sostanzialmente, guardi, le dico, la notizia non c'è. La notizia non c'è perché di fatto il provvedimento della liquidazione della premialità, lo ripeto, è assolutamente obbligatorio. È questa già sarebbe una notizia. Perché obbligatoriamente bisogna dare una premialità a tutti? Una premialità va data a chi fa le cose bene e a chi fa le cose male, no? Ma certo, ma il concetto però è diverso da chi fa le cose bene, sicuramente. Ma c'è una graduazione che viene rispettata, ma un obbligo a darla. Cioè lo stipendio è costituito e il contratto prevede un pagamento fisso, che è lo stipendio, più una quota di premialità che viene data, o deve essere data obbligatoriamente, tranne naturalmente i casi come questi, sì, di cui stiamo parlando, che viene un premialità che rispetto agli obiettivi da raggiungere viene valutata in maniera del tutto indipendente da un nucleo di valutazione, voglio dire, non c'è un atto politico, una delibera. No, questo sì, ma perché sono andati adesso, lei ci sta dicendo sono state sospese per queste due persone, però a tutti gli altri dirigenti è arrivato questo premio? È arrivato, chi più chi meno naturalmente, ma quindi... il premio, cioè la parte retributiva relativa al fondo premiale deve essere attribuita. Ma perché lei dice deve essere? Cioè ci può essere qualcuno che non ha raggiunto i risultati e prenda zero? No, che non ha raggiunto i risultati e prende il 40%, il 30%, il 60%, il 20%, comunque 10, qualcosa zero, anche zero, ma zero deve corrispondere necessariamente ad un altro tipo di punizione, cioè un licenziamento. Un licenziamento. Vabbè, comunque diciamo, lei dice non arriveranno questi, questa premialità non arriverà. Le dico, guardi, con molta sincerità, fa molto clamore questo concetto della premialità, ma è assolutamente, diciamo così, obbligatorio e normale, esiste da sempre nel contratto e non si potrebbe fare diversamente, non è che si può decidere io non ti do questa parte contrattuale, perché è un diritto sindacale legale. Poi. Senta presidente, in Molise ci sono due province, Campobasso e Isernia, una delle quali Isernia non risponde ai requisiti, andrebbe accorpata, eccetera. È nato un non solo per il Molise, anche per Basilicata e Umbria, quelli che hanno due province, è nato un movimento bipartisan di pressione in Parlamento a dire una regione con una provincia non si può fare. Perché c'è una sovrapposizione, non ho capito perché. Lei di che posizione è intanto? Andrebbero cancellati? Guardi, questa provincia nacque proprio perché... Quale? Isernia? Isernia. Si sviluppò questo dibattito proprio sul fatto che essendo stata istituita la regione, è stata istituita una cinquantina di anni fa, era necessario creare questa provincia anche per individuare, cioè, l'ente intermedio che non poteva essere unico perché coincidente con tutto il territorio, creerebbe delle sovrapposizioni anche di competenze. In Val d'Aosta c'è un'unica provincia, eppure stanno benissimo. La Val d'Aosta ha uno statuto speciale, c'è altri regolamenti, però voglio dire, questa è stata la ragione per cui si è istituita. Oggi, ma secondo lei adesso andrebbe salvata? Cioè bisogna avere due province? I cittadini sa cosa dicono? Togliamole tutte e due a sto punto e cancelliamo queste province. Sì, ma perché oggi probabilmente si ragiona così e io sono per esempio per cancellarle tutte. Lei le cancellerebbe tutte le province? Io le cancellerei tutte o nessuna, nel senso che l'idea di togliere le piccole non so a che cosa serve. Per me è più inutile una provincia grande, per la verità, perché ci sono dei riferimenti, dei compiti che la provincia ha, tipo quella della viabilità, quello delle scuole, l'ambiente, che comportano la gestione a una dimensione possibile. Però questa idea, quindi lei che è per l'abolizione delle province... Quando dico abolire le province, non nel senso di abolire le funzioni. Quelle le fanno le regioni e i comuni. I comuni non le possono fare. La regione. Sa cosa ci ha detto però? Due giorni fa il presidente della provincia di Bergamo, qui ai nostri microfoni, ha detto: ma per esempio, allora cancelliamo una regione come il Molise? Cioè, quanti abitanti fa il Molise? Questa è una... è una regione piccola, cioè voglio dire... È una regione piccola che si è guadagnata il suo spazio di autonomia, ha una identificazione, un'identità di popolo e di storia che è stato sempre... Tant'è che prima era Abruzzo e Molise, non era Abruzzo. E quindi dopo anni di battaglie, di rivendicazioni, anche nel Mezzogiorno d'Italia c'è stato questo riconoscimento, dico anche perché nessuno si scandalizza delle province autonome del nord, che insomma naturalmente sono rispettate anche se hanno 100.000 abitanti. Quindi il Molise deve rimanere. Che storia di qualità superiore avrebbero. Insomma. Senta, mi ha colpito anche questa cosa, Presidente, che abbiamo ancora due minuti, ma ieri nella Spending Review il governo si è deciso con un emendamento, non il governo, un emendamento che ci sono 8 regioni, tra cui la sua, il Molise, quella dove lei è governatore, che potranno anticipare di un anno l'aumento dell'IRPEF per i conti in rosso della sanità. Ora, mi faccia capire perché, se ci sono i conti in rosso della sanità, quindi la colpa è, mi perdoni, ma vostra, debbano pagare i cittadini con più tasse. Anche questa è una facile affermazione. La colpa è vera. Io credo che forse è vero che questo paese ha una situazione organizzativa ed economica che viene da lontano, tra nord e sud, che è differente. E non si può in qualche modo fare i paragoni con dati che sono differenti. La sanità del sud è sempre stata diciamo molto problematica, soffre anche di una certa arretratezza rispetto al nord, di una mobilità di gente che dal sud si va a curare al nord. Ma al di là, cioè vostra nel senso, cioè la classe politica, adesso ci saranno mille i motivi per cui i conti rossi sono dati, però non certo la colpa dei cittadini che ora dovranno pagare. Eppure si ritroveranno. Semmai dei cittadini che hanno eletto i loro amministratori, insomma. Quindi, allora scusimi, è gioco facile, posso dire anche lei in Molise, allora posso dire. Io avrò le mie responsabilità, ma le assicuro che è molto difficile far quadrare i conti in una situazione in cui l'economia non aiuta. Però ripeto, perché devono pagare i cittadini con le tasse? Cioè perché adesso devono mettere mano ancora nel portafoglio i cittadini? Io sono assolutamente contrario. Per quanto mi riguarda sono contrario e credo che sia anche ingiusto. A meno che non ci siano delle responsabilità gravi, tali che per cui il governo interviene in maniera diciamo adeguata, ma non scaricando sui cittadini. E quindi se è ingiusto non aumenterà l'IRPEF nella regione Molise l'anno prossimo, a meno che non sarò costretto dalle regole che detterà il governo. Capisce che sarà sempre colpa di qualcun altro, però pagano i cittadini. Io capisco certo, è come per dire, insomma, se tu hai una situazione economica arretrata rispetto ad altre, sei penalizzato. Ecco, questo è il concetto. Non è accettabile in un discorso di serenità. Oggi, naturalmente, visto all'interno della linea della spending review, visto in una situazione di crisi, oggi naturalmente credo che l'opinione pubblica sia assolutamente favorevole a questo tipo di cose, ma credo che sia ci si debba ragionare su questo, perché si può peggiorare la situazione economica di aree del paese che già sono in evidente difficoltà. E si devono trovare altri sistemi di penalizzazione, compreso quelli della politica, compreso quelli dei commissariamenti, compreso quello delle rimozioni dei amministratori. Invece si ricade sempre lì. L'IRPEF, i cittadini. Si ricade sempre lì perché aumentano le tasse e si risolve il problema. In definitiva, le tasse dovrebbero aumentare per i trasporti che costano di più, per la sanità che costa di più, per l'istruzione che costa di più, cioè dovrebbe essere molto più costoso vivere al sud. Questa è un'idea assolutamente incompatibile con lo spirito della Costituzione, con quell'idea di solidarietà nazionale che ha sempre regolato la vivibilità in questo nostro paese. Va bene. Presidente, io la ringrazio, in attesa di sperare di capire che non aumenti l'IRPEF in Molise, però stiamo a vedere, fiduciosi. Se dipenderà da me, perché ancora l'emendamento è passato, poi ancora... Però così sembra dire colpa di altri, sembra sempre dire colpa di altri. No, se dipende, lo dico subito, se dipende da me non ci sono, diciamo, imposizioni... Non l'aumenta. Io non l'aumento perché, per quanto mi riguarda, stiamo rientrando anche dalla situazione dei conti in rosso. Entro quest'anno ce la faremo. Va bene, staremo a vedere. La ringrazio intanto il governatore del Molise, Michele Iorio, per essere stato con noi del Popolo della Libertà. Noi, dopo la pubblicità e il meteo, andiamo a capire cosa è successo a Milano. Ma non è tanto parlare di una storia di Milano. Un garage privato ha fatto ricorso contro l'area C, quella per cui bisogna pagare per entrare nella cerchia del centro di Milano, e ha vinto al Consiglio di Stato. E questo è l'emblema dell'Italia. Ci sono cittadini milanesi che stanno facendo la fila ieri per andare a ringraziare questi titolari di un garage privato che hanno sconfitto una decisione di un'amministrazione, condivisibile o meno, non è tanto questo il problema, è condivisibile o meno mettere un'area del traffico, ma il concetto di cui vogliamo parlare è giusto un paese nel quale un'amministrazione fa una scelta e un interesse particolare ottiene un sì dal Consiglio di Stato e manda a carte 48 questa scelta di un'amministrazione centrale? Oggi Pierluigi Battista sul Corriere della Sera scrive: il provvedimento del sindaco di Milano era giusto, ingiusto, non era un granché. Questa è una valutazione politica che spetta agli elettori, e invece gli elettori non potranno giudicarla perché un'istanza ha provvisoriamente bloccato il piano. E ora bisognerà attendere autorizzazioni, scartoffie, TAR, corti, consigli, appelli, istanze locali, centrali e circoscrizionali. Avvocato Federico Tedeschini, buongiorno. E benvenuto. Lei è docente di diritto pubblico alla Sapienza, ha seguito la causa per questi titolari, questo garage, al Consiglio di Stato. Saluto anche il presidente del Codacons Consumatori, Carlo Rienzi. Buongiorno e ben ritrovato, avvocato Rienzi. Buongiorno a voi. Allora, Tedeschini, avvocato Tedeschini, qui la questione, non entriamo nel merito, il giudizio c'è stato, il Consiglio di Stato ha dato ragione ai vostri assistiti, punto, fine, le sentenze sono queste. Però le chiedo, ma è normale che un privato cittadino possa prevalere su una decisione di un'amministrazione centrale, buona o giusta che sia? Guardi, questo è un paese già a tasso di democrazia piuttosto basso. Se anche questo diventa la normalità, a questo punto ci conviene chiamare i colonnelli e non parlarne più, perché da sempre il diritto amministrativo serve a controllare il potere dell'autorità, quando, come in questo caso, questo potere è stato esercitato male, nel senso che il Consiglio di Stato ha innanzitutto preso atto della circostanza che in questa materia di tariffe, perché di una tariffa si tratta, la decisione non doveva essere della Giunta ma del Consiglio Comunale. E questo sul piano Italiano del diritto dovrebbe tagliare ogni tipo di polemica. Ma non è questione, avvocato, dai valori in gioco. Non, avvocato, mi permetta, non è questione di, sì, per carità, di giusta e sacrosanta lana caprina e di che in sede giudiziaria voi avete fatto valere. Però il senso, un comune decide di fare una zona a traffico limitato, una questione anche politica seria, dibattuta, e una decisione di un Consiglio di Stato che accoglie un'istanza di un singolo prevale su questo. I giudici amministrativi servono solo proprio per questo. Poi se possiamo anche decidere di farne a meno, per carità, questa anche è una scelta politica. Certo. Ora l'elettore si deve domandare se è preferibile avere la possibilità di un giudice che sospende un atto dell'autorità, oppure che l'autorità è talmente sovrana che può fare qualunque cosa che nessuno può dire niente. Sa è cosa... un po' quello che succede col problema della responsabilità dei magistrati. Sa cosa scrive? Vengono restare irresponsabili e poi tutti sappiamo quello che accade ogni tanto. Sa cosa scrive oggi Michele Serra, che dedica la maca di Repubblica su questo? Considero che il mio privato di interesse di abitante di Milano sia gravemente leso dalla riapertura di Area C e dunque invito tutti, chiunque si consideri personalmente danneggiato, a non parcheggiare mai più a Mediolanum Parking, boicottando chi boicotta la lotta all'inquinamento e ostacola la battaglia in favore dei mezzi pubblici, cioè il garage. Perché che ha vinto. Che il boicottaggio è reato, con questo non voglio dire che bisogna perseguire Michele Serra, avrebbe potuto semplicemente rivolgersi anche lui a un avvocato e far sperare i suoi interessi in modo lecito e non in modo illecito, abusando del mezzo di stampa. No, no, questo così, insomma, però siamo un po' l'Italia del ricorso agli avvocati. A questo proposito, il presidente del Codacos è l'avvocato, anche lui Carlo Rienzi. Io vorrei capire, Rienzi, non è che adesso voi chiedete addirittura che i 600.000 euro, credo, di multe staccate finora debbano essere risarcite, perché se l'area C è sospesa non vale neanche per il passato? Avrebbe ragione Rienzi. Noi veramente siamo per l'area C, cioè siamo per il pagamento, abbiamo sempre sostenuto questo. Il problema è che i diritti individuali valgono e valgono tanto, solo che se l'amministrazione non è capace di fare i provvedimenti, poi si ritrova di fronte a queste sentenze dei giudici. Cioè non è che non era possibile fare un altro tipo di provvedimento, noi questo problema ce l'abbiamo avuto anche a Roma, quando hanno chiuso al traffico certe zone di Roma, c'è stato un garage, mi pare si chiamava, no, un gommista, Jolly Gomme, che fece ricorso e lo vinse, e l'amministrazione si riunì e fece un provvedimento in cui diceva che deve andare a Jolly Gomme può entrare. Per l'avvocato Tedeschini, per il professor Tedeschini, questo è giusto, cioè il sacrosanto principio basilare del diritto amministrativo, se no buttiamo a mare anche questo. Per lei è così? Sì, sicuramente, cioè bisogna contemperare i diritti e il bene pubblico con i diritti individuali, ma non sacrificare il bene pubblico e il diritto collettivo ad avere l'ambiente salubre. Cioè se vi sono delle attività commerciali all'interno della zona chiusa che sono legate all'uso della macchina, o si concorda con loro lo spostamento fuori, oppure si fanno delle deroghe speciali. Per gli hotel non è così, scusate, se io devo andare all'hotel posso, adesso non so se si paga a Milano, però dovunque posso entrare avendo dei permessi provvisori e a passare nelle zone che sono interdette alla circolazione. Cioè è una cosa di una semplicità assoluta. Io purtroppo non capisco che cosa sia successo davanti ai giudici. Se il sindaco avesse avvertito il Codacons, il Codacons sarebbe intervenuto a suo favore, al suo fianco, e si sarebbe trovata anche davanti ai giudici. Perché guardate, anche i giudici amministrativi oggi, col nuovo processo, possono fare una sorta di conciliazione, cioè possono dare delle indicazioni su come risolvere il problema. Invece qui sono andati avanti come tori con le corna abbassate a dare botte e si sono trovati in queste condizioni. No, però non mi sembra un dramma, basta che la giunta si riunisca, il consiglio si riunisca subito e faccia un provvedimento. Beh, intanto il provvedimento è esecutivo, quindi da oggi potete circolare per Milano tranquillamente. 24 ore una cosa del genere. Vabbè. Già diciamo che era prevista la sospensione, credo, per agosto dell'area C, e comunque a settembre ci sarà messa una toppa su questo, però c'è da dire che il TAR della Lombardia aveva respinto il primo ricorso, poi in appello, cioè il Consiglio di Stato, è stato accolto. Però avvocato Tedeschini, lei mi pare di aver capito che dice avrebbero ragione a richiedere tutti i rimborsi anche i cittadini multati finora? Il provvedimento appare illegittimo, e appare illegittimo anche solo sotto il profilo del fumus. Io fossi uno di quelli che riceve questo tipo di contravvenzione, avrei impugnato, e le devo dire sono perfettamente coerente. Io ho 40 ricorsi pendenti contro il Comune di Roma per multe che giudico illegittime e ho una causa contro Equitalia che ha provato a prendermi i soldi, anzi me li ha presi coattivamente e gli ho fatto azione per danni. Se tutti facessero così, forse le amministrazioni sarebbero un po' più attente ai diritti individuali e non avremmo bisogno del ricorso alla chirurgia giudiziaria. L'invito è quello, come dire, le amministrazioni scrivete bene o meglio i provvedimenti, ma c'è sempre un cavillo. Ma non quale, è solo un problema di confezionamento del provvedimento, è anche un problema di coinvolgimento delle parti. Come giustamente diceva Carlo Rienti, prima di fare questo provvedimento avrebbero dovuto attivare quegli strumenti della 241 che anche noi abbiamo indicato nel ricorso, cioè chiamare i soggetti incisi, i parcheggi, commercianti, eccetera, e dire: beh, sentite, venite qui, vediamo un po' come compensare l'inevitabile danno che voi avrete per dare quest'altro presunto vantaggio ad altri cittadini. È stato un danno commerciale. Questo non è avvenuto. Allora, fatemi salutare insieme all'avvocato Tedeschini, che ripeto ha difeso in Consiglio di Stato i vincitori di questa causa, insieme al presidente del Codacons Carlo Rienzi. Ci ha raggiunto, lo saluto, anche il sindaco di Basiglio, Marco Flavio Cirillo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Basiglio, Basiglio è un comune nella cintura, nella periferia di Milano, proprio a ridosso di Milano. Sono da lei subito dopo il traffico, perché lei ha annunciato, a questo punto siamo pronti con la class action. Vorrei capire di che cosa. Class action de che? Cioè, chi volete fare voi? Ma adesso, innanzitutto, non siamo ricorrenti contro il Comune di Milano. Il nostro, diciamo, giudizio sarà a ottobre nel merito, perché la sospensiva non ce l'hanno accordata nonostante avessimo gli stessi argomenti per i quali è ricorso anche il garage, anche più di un argomento. Nel senso che in assenza di un piano urbano del traffico tu non puoi fare un provvedimento di giunta di questa maniera, tantomeno delle ordinanze applicative. Io faccio il sindaco da 9 anni, queste cose le ho anche subite, quindi ho imparato un po' la lezione. Quello che diceva l'avvocato Tedeschini non è da sottovalutare ed è fondamentale nei procedimenti amministrativi, cioè quando tu fai un provvedimento che comunque lede dei diritti, il diritto alla mobilità innanzitutto delle persone, tu devi coinvolgere tutti i soggetti e tra i soggetti ci sono anche i comuni, perché i comuni dipendono da Milano per la fornitura. Però, sindaco, se coinvolgi tutti i soggetti non troverai mai un punto di accordo. E com'è? Sì, ma si chiamano conferenze di servizi apposta, perché poi si trovano le quadre in questi provvedimenti, si trovano quelle accortezze che non è che devono accontentare tutti, ma devono accontentare l'interesse generalizzato, che è un'altra cosa. Ora, provvedimenti d'imperio come questo, senza prendere neanche con il comune di Basiglio che confina con Milano o col comune di Assago, che sono ricorrenti, ripeto, conto, quando dipendono da Milano per i trasporti e nessuna corsa in più è stata messa, nessun avvertimento, nessuna procedura di coinvolgimento è stata attuata, credo che faccia sì che il mio comune, cioè il sottoscritto, si sia adoperato per tempo, quindi l'abbiamo lanciata 8 mesi fa, gennaio uscita, quindi per fare una class action. Abbiamo aperto una petizione online, abbiamo 500 sottoscrittori già, ma li abbiamo già messi da parte, abbiamo detto adesso facciamo ricorso al TAR, chiediamo la nullità degli atti, perché gli atti secondo noi sono nulli. Vabbè, ma adesso in teoria, voglio dire, continuate, perché c'è... Noi stiamo aspettando, adesso lì c'è, se non sbaglio, l'avvocato Tedeschini, che patrocina il famoso garage, ha avuto ragione da parte del Consiglio di Stato sull'annullamento e sul fatto che il TAR non ha la sospensiva, se non sbaglio, mi sembra che avvocato Tedeschini. Quindi di fatto poi si dovrà andare nel merito, quindi aspettiamo tutti quanti questa valutazione, che è importantissima. Allora, fatemi fare così, prima di andare un attimo da Carlo Rienzi, che tra l'altro presidente del Colacos è a favore di quest'area C, però effettivamente mi sembra di capire, Carlo Rienzi dice, sono stati dei provvedimenti scritti male, cioè fatti male. Fatemi sentire due ascoltatori all'800240024. Gennaro da Napoli, buongiorno Gennaro. Buongiorno. Io volevo dire che anche a Napoli c'è pendente un ricorso al TAR contro il provvedimento che ha penalizzato, che ha impedito l'utilizzo di via Caracalla. Guardi, non sono stupito. Siamo l'Italia dei ricorsi, questo è il dato di fatto. A qualcuno piace, a qualcuno no. Allora, qui c'è la cultura del no. Più si limita la libertà personale, più si limitano le opere pubbliche, più si impedisce qualsiasi cosa e più c'è ricaduta elettorale. Bisogna ribaltare questa cultura e affermare una cultura di libertà, che è anche la mobilità privata, soprattutto in assenza di mobilità pubblica, perché a Napoli per fare una metropolitana ci vogliono 40 anni, mentre a Parigi negli stessi tempi ne fanno 10 linee. Ma lei bisogna affermare la cultura di che cosa? Quindi lei della libertà. della libertà. Ma quindi lei è assolutamente favorevole a dire giusto che ognuno possa fare i ricorsi che vuole che vengano accolti? Io ritengo che ogni cittadino abbia il diritto di far valere anche nelle sedi giudiziarie, vista l'incapacità della politica, i propri diritti allorché li si ma questo sì, questo sì, però ma certo, ma questo sì, ma poi bisognerà trovare un punto d'incontro se l'interesse di un cittadino debba prevalere sull'interesse di tanti cittadini. L'interesse collettivo, se migliaia di persone non sono d'accordo, se non ci si riesce a organizzare in sede politica ed esiste anche una sede amministrativa, va dita anche la sede amministrativa. Va bene, grazie Gennaro. Mi faccio andare da Lucio a Roma. Buongiorno Lucio. Buongiorno e grazie di avermi richiamato. Allora, io volevo brevemente dire una cosa, non entro nel merito della cosa, però dico che in Italia penso che uno dei mali più pericolosi sia l'eccesso di democrazia, che porta a una dittatura dei singoli. Praticamente l'interesse pubblico si piega sempre e comunque davanti ai privati, che non dico non debbano essere compensati né altro, ma qui siamo nel caso di qualcuno che fa ricorso magari per un crocifisso in una scuola, di quell'altro che fa ricorso per questo, di quell'altro. Noi ci troviamo a tutelare solo le minoranze e così distruggiamo ogni concetto di nazione, di sociale, di maggioranza. Grazie Lucio, si fermi lì. Presidente Renzi, che ne pensa di questa analisi? Soprattutto su Napoli, dove la libertà è tale perché la gente non va senza casco, senza cintura, va nelle corsie degli autobus pensando che sia normale, eccetera. L'anarchia, quando la libertà diventa anarchia. Ma a parte questo, noi siamo i paladini come cosa della tutela dei diritti, anche dei diritti e dei piccoli diritti, l'ha detto anche la Cassazione, che il nostro compito è questo, però non ho sentito da nessuno parlare di quello che c'è dietro questi provvedimenti. Una cosa è la cartella pazza, io addirittura ho fatto rinviare a giudizio un componente di Equitalia perché mi era mandata la cartella pazza sbagliata, e una cosa è l'ambiente, lo sapete che si muore di smog? Cioè si muore davvero. Noi adesso abbiamo avviato nelle città dove si superano questi limiti dello smog un'azione risarcitoria, come vedete, quindi le facciamo le azioni risarcitorie, una sorta di class action per tutti i cittadini, a cui si può aderire mandando un sms a un certo numero, e per avere un risarcimento, perché sono costretti a vivere in città dove lo smog è eccessivo. Allora, se un provvedimento va a limitare cause di morte, perché si muore, ripeto, di smog, si muore, quindi con la macchina ci si può anche andare a posto della macchina con l'autobus, ma morire non è giusto. Se un provvedimento è fatto male, noi non è che avalliamo poi quelli che invece fanno cause per annullare tutto e distruggere e continuare a far morire la gente di smog. Diciamo, ci si mette intorno a un tavolo, sono le conferenze dei servizi, e sono fatti in tutte le città di bloccare il traffico alle macchine. Un domani, cari amici, le macchine non entreranno proprio più nelle città, continuando così, continuando a tollerare le doppie e triple file come fanno i vigili urbani a Roma, continuando a far entrare le macchine il triplo di quelle che un centro storico può tollerare, poi alla fine andremo tutti in bicicletta a piedi, che sarà anche una cosa salutare, ma è un processo inevitabile. Sì. Allora bisogna fare provvedimenti equilibrati, conferenze dei servizi, avvertire però, i comuni, e però poi fare, e però poi, di, po, poi difenderli, poi, e poi difenderli, dice, poi difenderli, e poi difenderli adeguatamente. E se il TAR dice una cosa, benissimo, invece di scatenare la gente e avallare il fatto che vanno a far morire gli altri con lo smog, o avallare per esempio quegli autovelox, chi andava a 300 all'ora, e dirà l'autovelox però era illegittimo, allora facciamo tutti causa perché abbiamo fatto bene andare a 300 all'ora, ma che ragionamento è questo? Dei provvedimenti che tengono conto dei diritti individuali, tutti quanti e fare un provvedimento. Questo non è facile. Professor Tedeschini, che ne pensa a questa lettura di Carlo Lenza? Dice, l'esperienza, il richiamo, l'esempio dell'autovelox è emblematico, perché ha ragione Renzi sul fatto che bisogna colpire comunque chi va a 300 all'ora, però usare l'autovelox per aggiustare il bilancio dei comuni, qualche volta truccarlo, perché questo è avvenuto, chiedere 100 euro perché qualcuno ha sforato di 12 km l'ora, ecco, questo è un abuso del pubblico, ed ecco perché servono certi giudici. Senta, ma io ho letto sul giornale, ho letto sul giornale che addirittura c'è chi fa la fila e va a ringraziare, lei è di Roma, le assistiti a Roma, c'è chi va a ringraziare questi titolari di Mediolanum Parking, cioè va lì a dire grazie perché ci avete fatto togliere l'area C. Il folklore del quale io non mi occupo, fanno bene secondo me quelli che lo fanno. D'altronde lei ha visto, c'è chi va a ringraziare e c'è chi vuole boicottarli usando addirittura il potere che gli danno i mezzi di comunicazione di massa. Michele Serra, io sono assolutamente, Michele, glielo dico, scandalizzato di quello che mi avete detto essere stato scritto sulla Repubblica. Michele Serra su Repubblica. In Italia probabilmente non gli si pagherà. Vabbè, ma Michele Serra fa la macchia un po' provocatoria, ha detto provocazione per provocazione. Guardi, siccome il mio interesse personale secondo me è stato leso, invito a boicottare. Non è una provocazione, è come se dicessero non andate dall'avvocato Tedeschini per questa causa, non che la cosa mi interessi, anzi nel mio caso avrebbe un effetto positivo. Nel caso del garage non lo so. Fatemi sentire Vincenzo dalla provincia di Monza, Brianza, con lei concludo. Vincenzo, sia sintetico però. Sinteticissimo. Dalla provincia di Monza, Brianza, ma basta, certo, e cancelliamola sta provincia di Monza, Brianza. Dica, sì, Vincenzo. Sì, questo mi va benissimo. Il problema di fondo è un altro. Il comune di Milano non è in Burundi, non deve essere vessatorio e quando fa dei provvedimenti li deve fare col sale, perché l'avvocatura comunale sono degli sprovveduti. E le dico questo sulla base di una nostra vittoria al TAR legittima. Nostra chi? Lei per chi parla? Nostra, della mia società, perché ci ha multato per un servizio che noi abbiamo dato al cittadino. E a chi ha fatto causa? Io ho fatto causa al comune di Milano. Ah, ecco, e ha vinto. Perché ha vinto, gli hanno annullato le multe, nonostante noi avessimo chiesto un incontro con l'avvocatura comunale per dire guardate che state facendo una gaffe. No, loro avanti come avanti, dei caterpillar, avanti. È vero, senza mai sentire quelli che sono le esigenze. Vabbè, Vincenzo, con questa vicenda personale chiudo, se no sforo. Grazie a tutti, Federico Tedeschini, Carlo Renzi, il sindaco di Basilio, Cirillo, Marco Flavio Cirillo. Mi fermo qui, e mi fermo qui vuol dire che me ne vado in vacanza. Ditelo pure al sottosegretario Polillo. Vado in vacanza, sottosegretario, se ci ascolta con tanto affetto, è stato nostro ospite. Vado in vacanza un mese. Ci sentiamo il 27 agosto, ma 24 mattino rimane. 7:20 lunedì ci sarà Gigi Donelli a questi microfoni, quindi state qui da lunedì e noi ci sentiamo il 27 agosto. Ciao.